Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Abbiamo il grande piacere di avere con noi il batterista dei Fast Animal and Slow Kid, Alessio Mingoli. Ciao Alessio, benvenuti ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao, grazie mille. In occasione del vostro tour nei teatri, Una notte con Fast Animal and Slow Kid, concerto in quattro atti per piccola orchestra da camera, passerete anche da Bologna, precisamente il 31 maggio al Teatro Europa Auditorium. Raccontaci un po' questo spettacolo. Siamo davvero impazienti di tornare a suonare a Bologna, anche perché tutto ciò sarebbe già dovuto succedere, nel senso che in realtà era già fissato per giorni fa, ma ahimè, ha avuto il piccolo imprevisto di doversi operare di appendicite, e quindi abbiamo dovuto posporre le date, e quindi non vediamo l'ora di fare questo concerto. È nato tutto da tanto tempo, nel senso che noi da sempre, avendo la formazione classica da rock band, basso, batteria, chitarra e voce, siamo un po' limitati a questo orizzonte sonoro, e invece abbiamo sempre avuto la spinta, diciamo, ad andare un po' oltre, a cercare di aggiungere ai nostri dischi, ai nostri pezzi, strumenti che non sappiamo suonare, e quindi nel tempo, soprattutto nei dischi, l'abbiamo fatto sempre maggiore uso di questi interventi, fino ad arrivare appunto ad adesso, in cui per tante congiunzioni astrali si è creata la possibilità di mettere in piedi un tour con un'orchestra, perché comunque anni fa sarebbe stato impensabile. Noi siamo in 25 in tour in questo momento, tra crew, musicisti e tutto, quindi insomma ce n'è voluto di tempo per avere la possibilità di mettere in piedi tutto ciò, e appena è stato possibile abbiamo contattato Carmelo Patti, che è il direttore d'orchestra con il quale abbiamo curato anche gli arrangiamenti orchestrali di questo tour, con il quale in realtà già collaboravamo da qualche anno, e quindi da lì è nato un po' tutto. E poi lo scoglio vero è stato vederci di persona con i musicisti classici, che hanno tutte altre esigenze, altre dinamiche, e trovare l'amalgama sonora. Siamo contenti di fare queste ultime due date, perché abbiamo rimasto a Perugia e Bologna, e quindi siamo carichissimi. Ci saranno quattro musicisti sul palco, voi dei FASC, sì, e una piccola orchestra composta da sei elementi. Come avete lavorato nella scelta, e qual è stata l'idea proprio a livello sonoro? Allora, sì, saremo noi quattro più il quinto aggiunto, che è sempre con noi, che suona tastiere e altre chitarre, più i sei dell'orchestra da camera. E diciamo che la formazione dell'orchestra, proprio dei componenti, dei vari strumenti, l'abbiamo fatta insieme appunto a Carmelo Patti, direttore d'orchestra, che diciamo ha curato gli arrangiamenti, quindi ha scelto anche un po' quali fossero gli strumenti che meglio si adattassero alle parti che aveva in testa, che aveva un po' anche orchestrato insieme a noi. Tre archi ci vogliono per forza, e poi abbiamo aggiunto tutta una serie di strumenti che comunque danno anche un colore diverso al live, a prescindere dagli archi, il fagotto per esempio, o i fiati, tromba, trombone, e ne è venuto fuori una cosa totalmente inedita, tant'è che non stiamo semplicemente portando sul palco i nostri pezzi con un'orchestra sopra, oppure i nostri pezzi in acustico con l'orchestra che ci accompagna, ma stiamo portando proprio degli arrangiamenti inediti, studiati per l'occasione. Alcune canzoni le abbiamo proprio dovute riregistrare da zero per l'occasione. C'è scritto concerto in quattro atti. Cosa dobbiamo aspettarci noi da spettatori, proprio a livello della, magari anche della durata del concerto o della scaletta? Sarà un concerto in quattro atti. Abbiamo deciso di dargli questa suddivisione per dargli anche un po' un tono davvero teatrale. Noi spesso durante i concerti dividiamo le canzoni anche in base alle tonalità, per la facilità, diciamo, di accordatura delle chitarre, insomma tutti discorsi tecnici abbastanza noiosi. Invece in questo caso abbiamo deciso di adottare una metodologia differente, di dividere i pezzi appunto in atti, ma divisi per tematiche. Cioè abbiamo analizzato le quattro grandi macro aree tematiche che spesso insomma trattiamo nella nostra discografia, e abbiamo quindi deciso di raccogliere le canzoni secondo queste quattro macro aree, per creare un percorso tematico proprio, per raccontare una storia che poi è anche supportata per la prima volta nei nostri live anche da delle proiezioni, e quindi è proprio uno spettacolo inedito rispetto ai nostri concerti. Incuriosisce molto, l'unica cosa, peccato che a Bologna è già andato sold out. Sì, guarda, in realtà noi ne siamo contenti, sappiamo anche che questa cosa del cambio di data ha creato magari dei problemi a qualcuno che già aveva il biglietto, visto che si è un po' riscatenata la vendita online delle persone che non possono venire. La data era sold out da molto prima del giorno fatidico, quindi siamo contenti. Bologna risponde sempre alla grande con noi, e gli vogliamo bene davvero, anche perché poi noi abbiamo suonato davvero praticamente ovunque a Bologna, e quindi ci siamo davvero affezionati. Arriviamo all'ultima domanda. Mi immagino che differisca molto fare un live in un teatro rispetto a in un club o in un palazzetto. Come ve la vivete voi quattro come gruppo questo cambiamento? Beh, diverso per forza suonare in un teatro. All'inizio ci abbiamo messo un po' a capire quale fosse l'impatto, perché comunque iniziare un concerto in un teatro, poi abbiamo iniziato in un teatro, nel teatro della nostra città, un teatro all'italiana, con i palchetti, super elegante, affrescato. Diciamo che è un altro contesto rispetto ai locali, ai club dove di solito suoniamo. Però in realtà ti devo dire che è un'altra dimensione, ma è comunque molto bello. Le persone magari ci mettono un secondo in più a iniziare a cantare i pezzi, ma solo perché appunto non sanno bene come interagire in un teatro. Però poi anche con l'andare avanti del tour le persone hanno cantato praticamente dall'inizio alla fine, si sono alzate in piedi come in un concerto canonico, diciamo, con in più tutta la magia del teatro. Quindi devo dire che ha una magia unica. Noi poi l'abbiamo vissuta anche con il tour acustico, questa intimità che solo questi concerti possono dare, ma con questo tour teatrale abbiamo raggiunto forse un livello ancora superiore, quindi ci sta piacendo tantissimo. Grazie mille Alessio per la bella chiacchierata, e ammetto che mi hai fatto venir voglia di comprare i biglietti e sto rimpiangendo di non averli presi prima, quindi mi auguro che tra gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Città Fujiko ci sia qualcuno che possa assistere a questo spettacolo. Grazie mille ancora Alessio per averci tenuto compagnia, e in bocca al lupo. Grazie a voi, crepi.